Direi che possiamo iniziare la nostra serata all'interno di Spazio Libero, questa iniziativa dell'Assessorato alla Cultura e della Ripartizione Cultura Italiana della provincia, che si ripete da qualche anno nel mese di ottobre. È una bella occasione per trovare e scoprire il mondo dell'editoria, ma nel dettaglio poi vi passerò la parola a Michela Sicilia, che è la responsabile di questo progetto. In sostanza volevo soltanto ringraziarvi di essere venuti in questa serata, è un appuntamento con la storia, che presentiamo questo libro dal titolo Trieste 1914, una pianeta bufera, scritto dal professor Todero, accompagnato dal professor Sani di questa serata. E il libro è prestito presso la biblioteca provinciale, vedete qui davanti a voi. Un appuntamento con la storia in occasione di questo centenario, siamo tutti curiosi di sentire che cosa ci racconterà il professor Todero e cosa ci racconterà insieme anche il professor Sani. Grazie e buonasera. Grazie Michela. Allora, passo a presentare i nostri ospiti. Il professor Todero viene da Trieste, è insegnante e ricercatore presso l'Istituto regionale di storia del movimento di liberazione del Friuli Venezia Giulia ed è redattore della rivista Quale Storia. Si occupa di storia del confine orientale e abbiamo avuto ospite in biblioteca provinciale anche questa primavera. Accompagnato dal professor Andrea Sardi invece, che è insegnante presso il liceo classico Giuseppe Carducci di Bolzano, insegna storia e materie letterarie ed è ricercatore presso l'associazione Storia Regione Rendiscitelio. Ecco, prima di passare la parola ai nostri ospiti, volevo così dire due parole anche alla biblioteca provinciale, che partecipa ogni anno a queste iniziative di Spazio Libero, crede molto nell'incontro con gli autori e soprattutto nei percorsi storici. Questo è l'anno appunto dove si inizia ad affrontare il tema della Prima Guerra Mondiale. Ci sono varie prospettive, vari avvenimenti, mostre, stiamo assistendo a una surplus, forse in qualche caso di offerte, però ci tenevamo anche ad avere una visione di questo conflitto e delle testimonianze, o comunque conoscere degli studi fatti anche da Trieste, che è un punto di osservazione nuovo, diverso, con però degli agganci, dei contatti straordinari con quella che è anche la nostra realtà locale. Infine, crediamo molto anche nella opportunità e nell'occasione di conoscere direttamente gli autori dei libri che presentiamo, e quindi è un'occasione straordinaria per stabilire un contatto, per fare delle domande, per capire come ci si muove, soprattutto all'interno della ricerca. La Prima Guerra Mondiale forse è una delle prime che è anche documentata da una cronaca molto assidua, da filmati. Quello che mi ha impressionato sempre è anche la musicalità di questo conflitto che ci portiamo dietro, con i canti, con i cori degli alpini, insomma c'è tutto un repertorio direi anche molto commovente, ma questa è la mia opinione personale. Ma diciamo che è una guerra che si esprime attraverso una molteplicità di testimonianze e di documentazioni. Vi ringrazio di essere così numerosi, approfitto ancora un minuto di pazienza per dirvi una cosa importante per la nostra biblioteca, e cioè che da oggi la Biblioteca Provinciale Claudio Augusta organizzerà le proprie iniziative di promozione alla lettura come ospiti presso il Centro Trevi. Ecco, quindi quando riceverete le cartoline o gli avvisi o leggerete sul giornale, ecco, le iniziative le faremo qui, oppure in alternativa al Cristallo, al Teatro Cristallo o al Liceo Classico. Ecco, queste sono le tre sedi dove ci muoveremo per portare un po', diffondere un po' di più la conoscenza della struttura e dei nostri servizi. Vi ringrazio e a voi la parola. Grazie. Un saluto anche da parte mia e da parte del Carducci, il classico e linguistico, dove poi c'è un parere di Bolzano. Vado sempre sul classico e basta. Allora sì, una nuova verità. No, sono contento di tornare a conversare presentare al pubblico bolzanino Fabio Dovero, che è stato con noi lo scorso marzo, come ricordava prima Valeria, e qui questa sera con noi sarà domani poi appunto al Carducci. Domani ci parlerà del conflitto orientale della seconda guerra mondiale nella Venezia Giulia e in Istria. Oggi invece appunto ascolteremo Fabio sul suo piatto forte, sul suo argomento sul quale ha da anni avviato una approfondita attività di ricerca, cioè appunto la Grande Guerra. Il libro di cui Fabio ci parlerà tra poco è stato pubblicato lo scorso anno, nel 13, e si aggiunge ad altre pubblicazioni in cui lo Sottovero si è occupato soprattutto della Grande Guerra dal punto di vista della rappresentazione letteraria. Ecco, ha usato in questo libro in particolare anche fonti giornalistiche, i quotidiani triestini, il Piccolo, che è tutt'oggi il quotidiano di Trieste, ma anche quotidiani che non ci sono più, il Lavoratore, quello socialista, l'Indipendente, quello irredentista, e poi ha dato voce agli intellettuali e agli scrittori, la Trieste di Umberto Saba, di Slata per dei fratelli Stupanic, ma anche leggendo il libro ho scoperto anche appunto la Trieste porto dell'impero austro-ungarico e la Trieste dei conflitti sociali, degli scioperi anche duramente repressi dal 97° reggimento di fanteria prima della guerra, all'inizio del 900, quel reggimento che poi sarà impegnato nei massacri in Galizia nel 14. E ha scritto John Keegan, che storico inglese del 98, che tutto sommato oggi, a 100 anni appunto dello scoppio della Grande Guerra, possiamo dire che tutta la prima guerra mondiale è misteriosa. Sono misteriose sia le sue origini che il suo svolgimento. Ecco, Fabio Dovero questa sera con il suo libro può forse aiutarci a cercare di trovare un senso del svolgimento della prima guerra mondiale dal punto di vista speciale, particolare della Trieste del 14, di gennaio, con temperature molto basse e una tormenta di neve che sembra quasi preannunciare quella tormenta della calda estate del 14. Allora, volentieri adesso a Fabio, microfono e parola. Grazie. Intanto ringrazio in maniera tutt'altro che formale per questo invito la dottoressa Trevisan, che ci ospita, il professor Sarri, con cui possiamo dirlo è nata un'amicizia, insomma sono davvero contento di essere qui e sono davvero contento di essere qui a parlare della mia città. Il tutto mi rende un pochino responsabile, insomma, no? A rappresentare un pezzo di storia di Trieste. Stavo pensando, venendo qui in treno, a un grande spazio in cui Bolzano, Trieste, al principio del Novecento, erano ancora inseriti. E vi dirò di più di questo grande spazio. Mi è capitato a marzo, con il treno della memoria, insomma, con i ragazzi delle scuole superiori di Trieste e di tante altre città italiani, di fare una visita ad Auschwitz, e facevamo tappa a Cracovia, una città davvero meravigliosa. E allora anche Cracovia, prima del 900, era inserita nei confini dell'impero austro-ungarico, e un po' perché è qualcosa che piace anche molto a mia moglie, la gastronomia, i cibi e così via, ma devo dire che a mangiare e a bere la birra di Cracovia ci siamo sentiti molto a casa come triestini, così come ci sentiamo molto a casa andando alla Forst qui a Bolzano. Non sto facendo pubblicità, ci mancherebbe, Ecco, c'era questo grande spazio, un grande spazio che si allargava, si protendeva in Europa verso est fino a una parte dell'Ucraina, e anche questo è un elemento di riflessione, tra l'altro, no? Leopoli, Lvov, Livno, Lemberg, città dei molti nomi, anch'essa all'epoca era parte di quella provincia dell'impero che era la Galizia, appunto, no? Dove molti triestini, giuliani, sloveni, croati, poi del litorale, così come molti trentini hanno il loro primo terribile impatto con la prima guerra mondiale. Quindi da una parte dietro a questo libro c'è un po' questo, no? Questa area di una città che faceva parte di uno spazio molto vasto in cui c'erano tante differenze, tante diversità, ma c'erano anche tante cose all'interno di questo spazio che lo rendevano uno spazio in qualche modo omogeneo, no? Un'omogeneità e un'enorme eterogeneità che poi in un territorio decisamente piccolo in realtà, come era la provincia del litorale austriaco, ovvero quella che noi chiamiamo Venezia Giulia, ma naturalmente una Venezia Giulia allargata, c'è ancora l'Istria naturalmente a farne parte, la provincia di Gorizia era assai più vasta, si arrivava fino al passo del Predil, quindi ci si risaliva nella Carniola meridionale lungo la valle dell'Isonzo. Lì le diversità a un certo punto vengono a confliggere, mi riferisco in particolare alle tensioni nazionali che attraversano la storia della Venezia Giulia con il dilagare dei nazionalismi, nazionalismi che si contrappongono e così via dicendo. È vero, come ricordava Andrea, che ci sono delle suggestioni relativamente al 1914, no? Per costruire questo libro, che è stato un lavoro, devo dire, che mi è piaciuto molto, perché l'ho interpretato non tanto come un saggio più o meno paludato e impegnativo, ma innanzitutto veramente come un omaggio alle persone della mia città e alle generazioni che mi hanno preceduto, alle quali sono ancora molto legato, perché e la generazione, quella della Grande Guerra, dei miei nonni, insomma, no? L'ha attraversata pienamente quell'esperienza, no? I paterni e i materni e le loro mogli e prozii che hanno avuto piccole e grandi avventure all'interno di quel conflitto. E vi confesserò che l'idea di questo libro è nata in una maniera molto particolare. Qui c'è chissà che è un debole per i bagni di mare, del resto è una cosa che i triestini condividono in gran numero. E quando non sono appunto sulla spiaggia di Grado, a Trieste frequento un posto molto popolare, come giusto che sia, perché, ecco, per l'amor di Dio, appunto. Ne faccio parte anch'io di questa realtà e di questo popolo. E sento le chiacchiere delle persone, e tante volte penso alla vita di queste persone. Qualche signora che magari invita l'amica e dice: ma senti, sono le 5, andiamo a berci un caffè in casa. E sento un po' questo odore di caffè, di piccole cose preparate per l'ospitalità tra persone semplici come noi, insomma, no? E ho pensato a quelle persone come noi, semplici, in un momento un po' particolare della storia, non soltanto della città di Trieste, ma della storia dell'umanità, e cioè nell'anno di grazia 1914, che non è stato decisamente un anno di grazia, ma l'anno che spezza una continuità, che è il cosiddetto lungo 800, e apre, secondo alcuni studiosi, Hobsbawm, ormai una frase trita e ritrita, quello che è stato chiamato il secolo breve. Poi altri studiosi stanno interpretando diversamente anche questo tipo di periodizzazione, ma tutti sono d'accordo su un punto: il fatto cioè che la Grande Guerra costituisca davvero uno spartiacque nella storia faticosa del nostro cammino. Faticosa e anche bella, perché la vita è bella con tutte le sue difficoltà, ma anche con tutti i suoi piccoli piaceri, le piccole gioie. E allora, pensando a queste persone, poi ho cominciato a guardarmi un po' in giro, camminando per Trieste, ad alzare lo sguardo e a guardare le case. A Trieste ci sono molte belle case di quell'epoca, l'Ottocento, il tardo Ottocento, il primo Novecento, anche le case popolari che si costruivano nei primi anni del Novecento hanno anche di bello, ma purtroppo non possiamo dire altrettanto dell'architettura contemporanea. Allora, fatto uno più uno, quelle persone di cui vi dicevo prima, le loro case, e ho cercato quindi di costruire un po' il ritratto della città, di queste persone, delle loro vicende, appunto, in un anno che si apre in maniera come già stato ricordato, molto particolare. Sin dai primi giorni di gennaio il 1914 si presenta con temperature molto rigide anche per gli inverni di allora, che erano inverni sul serio, non come quelli così un po' edulcorati che conosciamo noi. E il 14 gennaio del 1914 effettivamente la città di Trieste si sveglia in preda a una vera e propria bufera di neve. Tra l'altro, quando c'è neve a Trieste o molto freddo, spesso c'è anche la boa, c'è il vento, quindi diventa davvero difficile andare per strada. Se poi le strade sono ghiacciate, veramente meglio chiudersi in casa, no? E infatti le cronache del Piccolo, che era all'epoca il quotidiano più in lingua italiana più diffuso in città, ci racconta di uno scenario che già in qualche modo sembra preludere alla guerra. È una città quasi deserta, pochissimi carri a cavallo, i cavalli hanno le zampe, gli zoccoli fasciati proprio per non scivolare, sono pochissime le piccole botteghe aperte, i mercati sono chiusi, davvero uno scenario prebellico, una città spopolata, come sarebbe stata spopolata dalla terribile estate del 1914. Ho detto questa cosa, stavo cominciando a pensare a questo libro, però guarda un po' questo scenario, che cosa può voler dire? E dopo, procedendo alla lettura del giornale, leggo che il 1 febbraio del 1914 a Trieste, nel campo di volo di Zaule, che è una località sulla strada verso Muggia, ci fu un avvenimento altrettanto straordinario, di tutt'altra natura, un avvenimento umano questa volta, non naturale. Ovvero, a Trieste era ospite per una esibizione il più famoso pilota d'aereo dell'epoca, si chiamava Celestin Adolphe de Goût, era stato inventore, o aveva fatto, credo, il primo lancio con il paracadute da un aereo, e aveva inventato soprattutto quella figura acrobatica che si chiama looping, il giro della morte. Pensate che cosa poteva dire all'epoca, perché è vero, è tutto fatto di percezioni che sono diverse dalle nostre, della realtà, e a quelle dobbiamo attenerci per capire il passato, no? Non soltanto vedere un aereo solcare il cielo nel 1914 era un avvenimento decisamente fuori dall'ordinario. Se poi c'era un pilota acrobatico, potete immaginare. E in quell'estate di febbraio, domenica di febbraio, succede che 100.000 triestini, con i mezzi pubblici, i mezzi privati, dalla bicicletta, il carro a cavallo, a qualche camion, a qualche automobile, e perfino a piedi, e sono diversi chilometri, si recano ad assistere a questo spettacolo aeronautico straordinario. Un piccolo particolare: questo pilota, più o meno un anno dopo, sui cieli della Francia, viene abbattuto da un pilota tedesco. E mi sono detto, caspita, ma c'è qualche cosa sotto, un altro segno? E poi dico, leggendo e scorrendo queste pagine, si scopre che, ma questo ce lo dicono anche gli storici della città di Trieste, insomma, anche quanto avevo studiato a suo tempo, non è che in città fosse tutto rose e fiori, certamente. Città, il porto dell'impero, la quarta città in ordine di importanza dopo Vienna, dopo Budapest, dopo Praga, c'era Trieste, insomma, quindi una realtà non di secondo ordine, ecco come purtroppo è diventata ultimamente, collegamenti ferroviari incredibili, una quantità straordinaria di viaggi quotidiani per tutte le località dell'impero, il porto e la sua straordinaria vitalità, che proprio Scipio Slatter ci descrive nelle pagine bellissime, pagine finali del mio caso, no? Questa descrizione meravigliosa della mattina presto al porto, quando vengono chiamati i facchini a scaricare le merci, quando il pilota appunto comincia a smistare i piroscafi qua e là, ecco. Però questa stessa città, che tra l'altro dalla fine dell'Ottocento comincia a diventare anche un importante centro industriale, che attira a sé moltissime persone, è un centro di immigrazione, Trieste, di grande attrazione, sia dalle regioni più vicine del Regno d'Italia, il Friuli, ma anche da regioni decisamente più distanti, la più distante delle quali è certamente anche quella della Puglia, dove già nel primo Novecento si costituisce un nucleo abbastanza significativo di immigrati del re, ma anche dalle Marche, dalle Romagne, molti di loro tra l'altro sono repubblicani e subito entrano in contatto con i repubblicani locali, che sono pochi ma molto battaglieri, ed è un luogo di immigrazione dalle vicine regioni della Slovenia, dall'Istria interna stessa, dalla Carniola, quell'immigrazione slava che per gli eredentisti italiani diventa un po' uno spauracchio, no? Perché si pensa qui sono le politiche dell'Austria che vogliono depotenziare il volto italiano della città a beneficio del volto slavo. E quindi si scoprono delle tensioni all'interno di questo mondo, appunto tensioni nazionali di due mondi che hanno organizzazioni speculari. Nelle slide che passano qua dietro si vedono tanto ginnasti italiani, certamente l'organizzazione più famosa e più importante dell'epoca per gli italiani era la Società Ginnastica Triestina. Ma gli sloveni, ereditandoli dagli originari nuclei della Boemia, avevano i Sokol, Falchi, no? Queste organizzazioni ginniche che anch'esse hanno una funzione patriottica di costruzione dell'identità, eccetera, eccetera. E la città di Trieste è solcata da forti tensioni interne in questo senso. E a proposito di sloveni e di tensioni interne, di conflitti interni, se vogliamo utilizzare una parola più forte, ecco che il 1 maggio del 1914 a Trieste ci sono scontri molto violenti tra manifestanti italiani e manifestanti sloveni. E poi, come ricordava giustamente Andrea poco fa, tensioni sociali che negli anni precedenti avevano visto a Trieste di spiegarsi la più grande manifestazione socialista che mai si fosse verificata nell'impero, lo sciopero più importante, lo sciopero dei fruttisti dell'olio, 1902, ci furono 12 morti, numerosi feriti, non tutto rose e fiori dunque, e tantomeno non tutto rose e fiori se si scorrono sempre le cronache dell'epoca, gli opuscoli del Partito Socialista, anzi della sezione adriatica del Partito Operario d'Austria, si scopre che c'era un'autentica guerra interna alla città, nei suoi cantieri, nelle sue fabbriche, perché c'è una grossissima incidenza di disgrazie sul lavoro. Incidenti sul lavoro che qualche volta sfociano anche in violenze di singoli nei confronti di capi reparto, nei confronti di dirigenti industriali, di cui ci parlano appunto le cronache dell'epoca. E ancora, di peggio, una guerra strisciante con le sue tante vittime, che è quella della miseria, la guerra della miseria della vita umana. La Trieste ricca, fatta di grandi compagnie di navigazione, di assicurazione, grandi accumulazioni di capitali in questi ambiti, nell'ambito del commercio, nel mondo delle finanze e così via dicendo, fatta di meravigliosi palazzi, e nel 1914 si inaugura nel cuore cittadino il palazzo della RAS, appunto, che ancora oggi si può vedere, è davvero un palazzo fastoso, nasconde però un altro volto, ed è il volto della povertà e della miseria di questa città. Una città a due volti. Slava, perché aveva capito veramente tante cose, l'avevo già scritto. A Trieste, dice Slava, per tutto e doppio, è un multiplo. E in effetti lo è, non soltanto dal punto di vista, della componente nazionale, ma lo è anche nella sua configurazione sociale. A grandi ricchezze si contrappongono grandi povertà. Ci sono due luoghi simbolo di questa contrapposizione nella città di Trieste, che ancora adesso si possono appena cogliere. Da una parte Piazza Grande, ovvero Piazza dell'Unità d'Italia, con i suoi palazzi, il Palazzo del Comune, il Palazzo del Lloyd austriaco, il Palazzo delle Assicurazioni Generali e il Palazzo delle Luogotenenze, inaugurato anch'esso da pochi anni, nel primo del Novecento. davvero fastosi, una piazza splendida che guardava al mare, anche se allora era chiusa da dei giardinetti. Ma bastava attraversare una stradina abbastanza insignificante per ritrovarsi nel ventre di Città Vecchia. E Città Vecchia era davvero il luogo simbolo del degrado urbano della città. Una città che ancora nel 1913 registrava delle percentuali di mortalità infantile molto elevate, che la ponevano, se mi ricordo bene, tra il terzo e il quarto posto tra le città europee. Nella vicina Istria, a dire, l'incidenza della mortalità infantile era pari a quella della poverissima Galizia. Una situazione abitativa degradata, bordelli, osterie, la piaga dell'alcolismo, che tutta si riassumeva in quella zona di Città Vecchia, dove c'erano persone che vivevano in edifici molto piccoli, in molte persone, spesso molti immigrati. Molti immigrati anche dal Regno d'Italia, ed è interessante rilevare come il movimento operaio triestino, molto organizzato, che nei primi del Novecento ottiene grandi consensi anche a livello elettorale, guardasse con molta diffidenza a questa frangia di sottoproletariato urbano che si forma in città, perché molto spesso queste persone facevano saltare un po' il piatto, erano disponibili a lavorare a condizioni contrattuali decisamente inferiori a quelle che erano i minimi salariali fissati dalla rigorosa legislazione austriaca. Lavoravano spesso in nero, per intendersi. E poi ci sono tanti piccoli mestieri stagionali, quelli che ormai non ci sono più, ma che in realtà la crisi sta facendo riaffiorare. Quelli che andavano in giro ad arrotare coltelli e a sistemare le ombrelle, no? Quelli che a Trieste si chiamavano i conzapignata, cioè quelli che aggiustavano appunto le pentole, il puntolame, le stoviglie e così via dicendo, i materassai, girovaghi e così via dicendo. Tutto un mondo piccolo, povero, spesso molto povero e spesso in condizioni di vita decisamente inferiori ai minimi della dignità umana, tant'è vero che in altre zone della città, dove operano dei medici che ci lasciano delle interessanti relazioni della loro attività, penso al rione di Sant'Anna nell'estrema periferia triestina, penso al rione di Servola, che è un rione fondamentalmente sloveno che si trova a ridosso della ferriera di Trieste, che ancora adesso è attiva nel bene e nel male, naturalmente non è tanto diverso da Taranto la situazione, soprattutto in quella zona della città. Questo medico triestino parla di quelle zone come della Siberia triestina, cioè di zone di grande miseria, di grandissima povertà. Un'incidenza incredibile della criminalità. A leggere i giornali dell'epoca ci si imbatte in crimini efferati che, ahimè, nulla hanno da invidiare a quelli che purtroppo ci capita di sentire quasi quotidianamente nei nostri telegiornali o nei giornali radio. Sintomi di un disagio molto forte, evidentemente, così come un tasso di suicidi uno ogni 3 giorni, se mi ricordo bene, nella città di Trieste, e un'incidenza fortissima della malattia psichiatrica. Non a caso nel 1908, nel rione di San Giovanni, dove tra l'altro sono nato, chissà, fu costruito il grande frenocomio triestino, quindi l'ospedale psichiatrico provinciale. E vi dirò di più, già allora all'inizio non prevedeva sistemi di protezione, una recinzione, quindi quasi un piccolo anticipo della riforma Basaglia. Poi ci si accorge che non andava tanto bene e ci costruiscono il muro. Non erano ancora preparati evidentemente alla psichiatria contemporanea, giustamente, insomma, no? Quindi una città dai due volti, una città che a sua volta è attraversata da conflitti e che guarda molto preoccupata ad altri conflitti che precedono di poco lo scoppio della Prima Guerra Mondiale. A Trieste si segue con molta attenzione gli sviluppi della situazione nei Balcani, per ragioni abbastanza ovvie, non soltanto perché l'Austria nei Balcani aveva un peso e il suo peso si era accentuato soprattutto nel 1908 con l'annessione della Bosnia Erzegovina, ma perché ancora una volta c'era una questione di commerci. Le due guerre balcaniche del 1912 e 13 alle quali si era guardata con molta attenzione dall'angolo visuale di Trieste, lasciano delle molte situazioni irrisolte. Una di queste situazioni irrisolte è quella dell'Albania, cui molti commercianti triestini, questo ancora una volta ce lo dice Scipio Slata, però guardano con molta attenzione. Tra l'altro a Trieste c'era un'importante comunità albanese. A Trieste si era celebrato un paio di anni prima un grande convegno degli albanesi in Italia, e da Trieste nel 1912 era partita la cosiddetta carovana della libertà, che avrebbe portato poi alcuni intellettuali e uomini politici albanesi a proclamare l'indipendenza e l'autonomia dell'Albania ai danni dell'impero ottomano. E ancora una volta da Trieste, nel marzo del 1914, partirà il sovrano designato, per una volta Italia e Austria si mettono d'accordo sulla questione dei Balcani, in particolare sulla situazione albanina, il principe David, il quale evidentemente di quella realtà non capisce assolutamente niente, si trova proiettato in una zona piena di tensioni, di conflitti, di agitazioni, di insurrezioni, e nel settembre del 14 ben presto abbandonerà il suo effimero principato, il suo effimero regno, ma ancora legami con Trieste, che un paio di anni prima, proprio in occasione della rivolta delle tribù albanesi dei Malissori, aveva mobilitato i volontari, tutti mazziniani, legati all'idea di Mazzini, appunto, della lotta per le libere, per i liberi popoli, la libertà dei popoli, insomma, proprio a Trieste si era costruita una centrale destinata ad alimentare questo flusso di volontari in Albania, e un signore di Capodistria che si chiamava Nazario Sauro pare avesse fatto alcuni viaggi con il suo vaporetto sulle coste albanesi per sbarcare lì delle armi destinate agli insorti montanari, appunto, d'Albania, che volevano liberarsi dal giorno turco. Tanti segnali che ci dicono anche, tra l'altro, e questa è una cosa che ho imparato anche andandomi un po' in giro proprio da quelle parti, facendo alcune lezioni che ho avuto la fortuna di fare proprio a Scutari. Beh, se io fossi andato a Scutari a dire loro: ma guardate che la guerra del 1914 scoppia improvvisamente, nessuno se l'aspettava, nei caffè chantant tutti ballavano, si ascoltavano le canzoni dell'epoca, la gente si divertiva e rimane attonita davanti allo scoppio della guerra, mi avrebbero riso in faccia, perché da quelle parti, e fino a prova contraria, i Balcani sono Europa, c'era una situazione di violenza diffusa, di guerre che avevano lasciato strascichi irrisolti e che non sarebbero stati risolti nemmeno dalla prima guerra mondiale, perché dopo la prima guerra mondiale, ad esempio, c'è il durissimo scontro tra Grecia e Turchia, con ulteriori conseguenze sulle popolazioni civili, su soluzioni di semplificazione etnica, diciamo così, di quei territori, e così via dicendo. Quindi la grande guerra non scoppia proprio del tutto in attesa, soprattutto in alcune parti dell'Europa, e probabilmente Trieste è una di queste parti in cui si avvertivano più da vicino le tensioni, perché ce n'erano anche nel suo ventre, al suo interno. E poi sarà la guerra, appunto, che a Trieste ha un suo antefatto, un suo preludio emblematico, ed è il passaggio per la città, appunto, dei funerali di Francesco Ferdinando e della duchessa Sofia Čotek. Tenete presente che Francesco Ferdinando, che oltre che essere l'erede al trono d'Austria-Ungheria era anche l'ispettore generale delle forze armate asburgiche, per recarsi in Bosnia a sovrintendere alle esercitazioni che lì si sarebbero svolte, parte ancora una volta con la Virus Unitis, una corazzata costruita a Trieste, da Trieste, mentre la moglie viaggia per via di treno, per via di terra in treno. La città, naturalmente, il 28 giugno del 1914, una giornata molto afosa, una domenica molto afosa, e potete immaginare dove si trovasse la maggior parte dei triestini: al mare, evidentemente, ma sono colti dalla notizia che viene diffusa da un foglio ciclostilato dalla tipografia figlia del piccolo appunto, che riferiva di quanto era accaduto nella città di Sarajevo, il duplice attentato che aveva portato alla morte del re al trono d'Austria-Ungheria. E appunto per la città, non senza contraddizioni, passa, transita il 2 luglio del 1914 questo macabro corteo funebre. Tenete presente che le due salme che a Sarajevo erano state raccolte nel palazzo del governo erano state imbalsamate, le cronache dell'epoca non risparmiano molti dettagli dello stato in cui si trovavano i corpi, che raggiungono lungo la Narenta le coste della Dalmazia, vengono imbarcate sulla via di Busunidis, che scortata da un'imponente flotta raggiunge appunto nella sera del 1 luglio il golfo di Trieste. E alla mattina successiva, molto presto, da una imbarcazione di stata lutto vengono sbarcati i due sarcofagi, le due bare. I sacri su un catafalco davanti a Piazza Grande saranno benedette dal vescovo di Trieste, Monsignor Catlin, e da lì seguiranno un corteo cittadino, una città di stata a lutto, molto preoccupata, e raggiungeranno la stazione della ferrovia meridionale, ovvero la stazione centrale di Trieste di oggi, da dove questo, che è stato definito il funerale d'Europa, continua nel suo viaggio. Una prima sosta a Lubiana e anche lì grandi manifestazioni di lutto, un'altra sosta alla stazione di Graz, ulteriori manifestazioni di lutto, e poi appunto il 3 luglio finalmente i funerali che si svolgono a Vienna, ma come dice sempre Acido Karl Kraus, sono funerali di terza classe, proprio perché il matrimonio che Francesco Ferdinando aveva contratto era un matrimonio morganatico, quindi non degno di una determinata etichetta. E poi la storia, sappiamo qual è, insomma, è la storia di un periodo convulso di trattative diplomatiche che a Trieste vede altre catastrofi atmosferiche, un nembo ciclonico che nel luglio inoltrato si abbatte sulla città causando danni, feriti, imbarcazioni, stabilimenti balneari, case, negozi e così via dicendo. E finalmente, per modo di dire naturalmente, la mobilitazione. Prima la mobilitazione parziale, poi la mobilitazione generale. Mobilitazione generale che fa sì che da Trieste e a Trieste fossero concentrate, c'era la stazione più importante che di tutto il territorio del litorale, Trieste, quindi di lì si passa, varie unità sono raggiunte dagli uomini del litorale, quindi triestini, goriziani, istriani, e tra loro italiani, sloveni, croati, naturalmente, che saranno inoltrati sui due fronti di guerra in cui in quel momento l'esercito austro-ungarico è impegnato. Da una parte il lontano fronte galiziano, appunto, e dall'altra il fronte balcanico. A questo punto non era mio interesse tanto seguire le vicende di questi uomini al fronte, un po' perché alcune cose sono già state dette, tantissime cose sono emerse dalla memoria, in particolare a Trento, no, dove sono stati fatti dei lavori veramente straordinari di ricerca sulla memoria, la memoria popolare di quello che è stato chiamato il popolo scomparso, anche, no, di questi trentini, e lo stesso in parte si è cominciato a fare da molti anni in questa parte, anche Trieste, a recuperare cioè la memoria dei tantissimi, e sono i più, che hanno partecipato alla Grande Guerra, no? Come volontari nelle file dell'esercito italiano, sono stati una importante, ma pur sempre una minoranza, evidentemente. Ma queste migliaia e migliaia di uomini che, volenti o nolenti, per amore o per forza, un po' come tutti gli europei, allora non ci sono grandi differenze alla fin fine, sono travolti dall'ombra della guerra. C'è un altro aspetto che mi interessava cercare di capire. Ditemi se sono troppo lungo, io smetto, cacciatemi. Spegnete il mio microfono. Ed è la vita della città in quei mesi. Che cosa succede a Trieste mentre tanti uomini finiscono al fronte? La città si mobilita in qualche modo per venire incontro alla necessità e a tutto ciò e alle privazioni che la guerra da subito impone. Non so se vi ricordate quando è scoppiata la prima guerra del Golfo, no? Era quasi paradossale che dei supermercati fossero già sparite l'acqua minerale e alcuni generi di prima necessità. Un po', diciamolo, era un po' ridicolo dalle nostre parti, no? A Baghdad molto meno, evidentemente, lì le cose erano serie. Qua da noi questa psicosi non era francamente molto giustificata. Oggi forse lo sarebbe un pochino di più, ma questo è un altro problema, purtroppo. Ecco, più o meno succedono le stesse cose. Spariscono alcuni generi di prima necessità e c'è subito chi fa il furbo. Alcuni pistori o alcuni fornai vengono presi letteralmente con le mani nei sacchi di farina e alzano subito i prezzi e finiscono davanti al tribunale di guerra. Perché, come sapete, in Austria, con lo scoppio della guerra, le libertà costituzionali vengono sospese. C'è una censura anche sulla corrispondenza privata, inizialmente, la censura sui giornali, che cominciano subito ad apparire con questi larghi spazi bianchi, laddove si dicevano cose che era meglio non raccontare, non dire, esprimere opinioni non gradite, ma questo accade in tutti gli stati in guerra, lo stesso accadrà in Italia e probabilmente con maggior rigore, dal 1915 in avanti, e vengono imposti dei calmieri sui prezzi, naturalmente, ma chi trasgrediva, e soprattutto i tribunali che operano a quel punto, sono tribunali militari, per reati che avessero qualcosa a che fare con turbative dell'ordine pubblico, della gestione ordinaria della vita economica, sociale, eccetera, eccetera. La città si organizzano le sue istituzioni benefiche. A Trieste all'epoca già da decenni operava una prestigiosa istituzione, si chiamava Pia Casa dei Poveri, esiste ancora oggi, la più prestigiosa istituzione, diciamo, benefica della città di Trieste, che deve far fronte all'emergenza. Nel mese di agosto eroga già 30.000 piatti di minestra alle persone che ne avessero bisogno, e questi piatti di minestra nel mese di settembre diventano 95.000, 4.000 piatti al giorno serviti in varie mense popolari che vengono distribuite sul territorio. Chi sono i destinatari innanzitutto di questi provvedimenti? Soprattutto le famiglie dei richiamati al fronte. Nasce un fondo di sostentamento, si cominciano ad erogare dei sussidi. Naturalmente i socialisti polemizzano subito, dicono che i sussidi, e hanno ragione, però quella era la situazione, non erano sufficienti. E essendo la Grande Guerra la prima guerra totale della storia, uno degli aspetti di questa totalità è la mobilitazione delle donne, naturalmente. A dire la verità, di donne lavoratrici, anche nel settore dell'industria trieste, ce n'erano già tante. E la donna triestina è già una donna anche molto emancipata. Però le donne cominciano a fare alcune delle cose che prima non facevano. C'è una novella di Italo Svevo, la novella del buon vecchio e della bella fanciulla, che racconta appunto di questo vecchio satrapo, possiamo dire, che sale su una vettura tranviaria e subito viene attratto da una giovane ragazza che era la conducente di un tram. In tutto l'impero la figura per antonomasia della donna lavoratrice, della donna mobilitata, apprendo dai colleghi austriaci, non è che lo scopro io evidentemente, è proprio la donna che lavora sui tram, come fattorina, come conducente o quant'altro. Anche Svevo ci cade, no? in questa cosa. E la mobilitazione femminile che poi naturalmente viene avviata anche a quello che è il lavoro di cura. Da subito, nell'estate del 14, a Trieste vengono organizzati dei corsi per formare delle infermiere, e a Trieste si organizzano vari ospedali militari al di là di quelli che già erano esistenti. C'era l'ospedale militare, c'era l'ospedale civico, quello che oggi viene chiamato ospedale, insomma da tempo viene chiamato l'ospedale maggiore della città di Trieste, ma diverse altre sedi vengono aperte, trasformando ad esempio la casa degli migranti della società austroamericana in ospedale provvisorio, così come i locali della società patriottica austria o la società ginnica Eintracht, appunto, che diventano altrettanti ospedali militari. Alcune compagnie di navigazione mettono a disposizione delle autorità alcune navi che diventano navi ospedale, vengono stabiliti dei collegamenti con delle vetture tranviarie adibite allo scopo tra il porto e alcuni di questi ospedali, e la cosa buffa nella tragedia naturalmente è che tutti si aspettavano che i primi feriti arrivassero via mare, invece arrivano con il treno, e quindi tutti questi preparativi per il momento vengono superati dalla realtà delle cose. Arrivano i primi feriti, con i feriti si muovono anche le epidemie, sta dilagando un'epidemia di colera e si teme che appunto questa possa colpire anche la città di Trieste come altre località dell'impero. Ed ecco che ad esempio proprio in quell'ospedale dell'Austro-Americana, la casa del migrante, che aveva al suo interno un bel cortile, si pensa di costruire un padiglione per gli ammalati eventualmente di colera o di altre malattie contagiose. Peccato che questo padiglione viene costruito utilizzando dell'Eternit, ma di cui allora, come sappiamo, si ignoravano gli effetti non particolarmente benefici sulla salute umana. Quindi c'è questa serie di provvedimenti, ma c'è anche un ulteriore aggravamento della condizione sociale della città. Molte aziende sono rimaste letteralmente sguarnite di manodopera, ci sono preoccupazioni per l'approvvigionamento di oli minerali, di gas, eccetera, eccetera. E ancora vengono presi dei provvedimenti per cercare di riavviare l'occupazione. Le cosiddette piccole industrie ottengono una serie di commesse per produrre degli oggetti destinati a chi? La grande guerra, una grande industria, destinati evidentemente agli uomini al fronte, quindi oggetti in pelle, sellerie, indumenti, naturalmente, indumenti intimi e così via dicendo. Quindi si cerca di indirizzare da una parte l'economia alle necessità della guerra e dall'altra anche di tutelare per quanto possibile la manodopera nella città e nei territori limitrofi, naturalmente. Naturalmente non scompaiono nel frattempo tutti i problemi sociali di cui abbiamo rapidissimamente parlato poco fa insieme, ma permangono, evidentemente sono acuiti, ma all'ordine del giorno i problemi sono altri. I problemi sono quelli di tante persone che si recano quotidianamente negli uffici comunali dove vengono affissi i nomi dei morti e dei feriti che appunto cominciano ad affluire nella città di Trieste. Il razionamento dei viveri, non vengono ancora introdotte le tessere, lo saranno a partire dal 1915, ma come dicevo prima ci sono già varie istituzioni che cercano di sopperire alle necessità delle famiglie dei richiamati. Soprattutto anche i socialisti si mobilitano, cercano di costruire delle reti di solidarietà che partissero dal basso. Scrivono ad esempio sul lavoratore: beh, ospitiamo noi i bambini dei mobilitati, se le donne non ce la fanno più a tenerli, cerchiamo di aiutare noi le mogli dei nostri compagni al fronte. Iniziative benefiche di ogni genere, di ogni natura, a tutti i livelli. E in questo caso devo dire che anche leggendo Il Piccolo, che era un giornale liberale nazionale dai moderati toni, ma sicuramente toni irredentisti, rivela il volto di una città fondamentalmente piuttosto solidale. Appaiono anzi degli articoli in cui si dice: accantoniamo i problemi, per il momento non parliamo dell'università italiana in Austria, dell'università italiana a Trieste, mettiamo da parte le nostre diatribe, perché prima di tutto ci sono dei problemi di cui la nostra città sta soffrendo e di cui bisogna in qualche modo farsi carico. E così sarà. E così sarà. Ci si avvia verso il primo Natale di guerra. A Trieste c'è una tradizione che perdura, quella di San Nicolò, il 6 dicembre, molto atteso da tutti i bambini triestini ancora adesso. E nel viale 20 settembre, una zona molto caratteristica della città, c'era e c'è tuttora una fiera, allora molto più dedicata ai bambini di quanto non sia adesso. Ci sono uno dei tanti mercatini, insomma, che appaiono nelle nostre piazze, nelle nostre vie, e le cronache dell'epoca ci parlano di questo San Nicolò, appunto, di questa festività un po' triste. Ci sono meno beni, meno dolci, fiumi, eccetera, però a proposito di guerra totale appaiono alcuni giocattoli come degli ospedali da campo destinati ai bambini. La guerra è davvero, non risparmia nessuno, insomma, nessuna fascia d'età, no? Sapete che anche in Italia il Corrierino dei Piccoli poi sarà uno strumento di propaganda filobellicista a partire da l'ingresso in guerra militare, ecco. E ci si avvierà poi verso il primo Natale di guerra, come dicevo, anche in questo caso un Natale particolarmente triste. Appaiono sul piccolo le lettere di alcuni soldati dal campo, in cui con nostalgia inneggiano San Giusto nostro, la nostra città, così, San Giusto il patrono della città di Trieste. E ancora si organizzano raccolte di beni destinati appunto a, tra virgolette, allietare i soldati, il Natale, il triste Natale dei soldati al fronte. Ancora l'ultimo dettaglio e poi mi fermo, che mi piace invece ricordare. Molte volte quando si parla di grande guerra, quello del pontificio di allora, Benedetto XV, viene fuori soltanto nel 1917, non per la famosa frase sull'inutile strage. Benedetto XV era appena salito al trono papale, che si trova davanti alla guerra. Sapete che chi l'aveva preceduto aveva molto deprecato il conflitto e muore, qualcuno dice addirittura dal dolore, per quanto l'umanità stava per compiere. In realtà Benedetto XV della guerra si occupa da subito. Si occupa, ad esempio, anzi si preoccupa dei prigionieri di guerra e invita i vescovi delle diocesi dell'Austria, dell'Austria-Ungheria, naturalmente, in cui si fossero trovati dei prigionieri di guerra, a vigilare su un comportamento umano nei confronti di questi. E nel novembre del 1915 esce una lettera apostolica, Gaudentissimi Apostolorum, in cui appunto il Papa Benedetto XV lancia, più che un appello, descrive in maniera molto accurata quella che era la situazione dell'Europa già in quei primi mesi di guerra. Quindi non se riesco a trovarla, scusate, non ho preparato questa citazione, forse 129. Vediamo un po'. No, forse prima, se non lo rinunciamo, non importa. Però ecco, mi premeva dire che, insomma, ben al di là di quello che sarà 119, c'è un 9, ecco, sì, è bellissimo, e dice, dice il pontefice: il tremendo fantasma della guerra domina dappertutto e non v'è quasi altro pensiero che domini le menti. Nazioni grandi e fiorentissime sono là sui campi di battaglia. Qual meraviglia, perciò, se ben fornite come sono, di quegli orribili mezzi che il progresso dell'arte militare ha inventati, si azzuffano in gigantesche carneficine. Nessun limite alle rovine, nessuno alle stragi. Ogni giorno la terra ridonda di nuovo sangue e si ricopre di morti e feriti. Che sono parole molto forti, dette in quel 1914. E devo dire la verità, non perché ami in maniera particolare le letture attualizzanti, ma quando sono stato a Roale di Puglia recentemente a sentire le parole accorate di Papa Francesco, mi sono venute in mente queste parole di Benedetto XV, e ho pensato a questa guerra mondiale a pezzi, che purtroppo ci capita di vedere ogni giorno, e ancora una volta a farne le spese sempre più sono le popolazioni civili. La Grande Guerra è il momento in cui le popolazioni civili cominciano a soffrire di più e di più della guerra. Pensate soltanto al fenomeno dell'allontanamento forzato da casa di chi risiedeva in zone di guerra, nei 14 di Pollesani, ad esempio, subito. Alcuni vengono accolti a Trieste, tra l'altro. Ecco, e quindi pensavo all'Ucraina, alla Russia, pensavo all'irredentismo, che poi in qualche modo farà il tifo perché l'Italia entrasse in guerra, così come i redentisti di altra nazionalità in altri contesti dell'impero o in altri contesti nazionali, l'Alsazia, la Lorena, eccetera, eccetera, no? E pensavo, insomma, come la storia non ci insegna assolutamente niente, di questo sono profondamente convinto. anche se in realtà questo non ci deve far abbandonare lo studio della storia, perché non è un vaccino, non agisce da formula magica sulle coscienze delle persone, ma almeno ci si augura che le persone di buona volontà a leggere le pagine della storia, ecco, tragano le conseguenze, insomma, no? E quindi, piuttosto che lasciarsi catturare ancora una volta da messaggi fatti di violenza, di identità, di territori, difesa dei territori, meditino piuttosto, per esempio, su parole come quelle pronunciate da Papa Francesco poco più di un mese fa, o quelle pronunciate 100 anni fa da Papa Benedetto XV. Grazie. Che rimarrà aperta ancora poco, Fino al 9 novembre. Ecco, fino al 9 novembre, però poi dovrebbe rimanere anche in forma digitale, quindi insomma dovrebbe rimanere traccia anche, no? una volta chiusa la mostra. Tra i tanti spunti, anche per cercare magari un piccolo, uno dei possibili parallelismi con il Tirolo Asburgico di allora, il Trieste Asburgico di allora. Forse c'è anche, allora, visto che hai concluso parlando di Benedetto XV, c'è forse il vescovo Carlin, che tu citi in pagina 83 con una lettera pastorale del 30 luglio in cui si esorta il clero secolare regolare a pregare, a far pregare per i soldati al fronte affinché il Signore concedesse loro la vittoria. La stessa cosa la scrive il 30 luglio del 14 il vescovo di Bressanone, che si chiama Pateker, e che pubblica una Franciscus Pateker, che pubblica una lettera pastorale dagli stessi toni, forse uno scarto magari tra la voce degli episcopati europei schierati con i propri paesi in guerra e la voce isolata del pontefice a Roma. Un altro spunto, non so, potrebbe essere in mente il riferimento che è fatto all'alpinismo, la lotta per l'Alpe, che è una lotta nazionalista, sul Carso, sulle Dolomiti Friulane, in Montanaria, e lo è qui, in zona dolomitica, dove la SAT Trentina entra in competizione con i club alpini austro-tedeschi per la conquista delle vette con i rifugi, no, costruiti a pochi metri l'uno dall'altro. Ma tanti spunti, tante domande, se adesso è il momento per approfittare della presenza di Fabio, insomma, qui magari potrei girare con il microfono. Fai tu, Anni, grazie. Ci fu un dibattito tra interventisti e non interventisti a Trieste, oppure la città era unanimemente schierata per la guerra? Bella domanda. Allora, diciamo che per quanto riguarda gli interventisti, sono semmai gli irredentisti che vanno già di là, no? Cominciano ad abbandonare la città, perché questi ritengono subito che si trattava di, diciamo, prendere la palla al balzo, quindi l'Italia doveva entrare subito in guerra, naturalmente dalla parte delle potenze dell'intesa cosiddetta e non della triplice alleanza, ovviamente, no? Quindi penso a Slatko stesso, che intraprende un percorso che lo porta lontano dalle originarie convinzioni di costruire un'Austria dei popoli, delle nazioni, eccetera eccetera, e invece svolta decisamente verso posizioni molto vicine a quelle del nazionalismo, a quelle di Timaeus, ad esempio Gero Timeus, Fauro Timeus, che scrive sull'Idea Nazionale, che è a Roma e che ovviamente batte sul tamburo della necessità per l'Italia di intervenire in guerra contro l'Austria, il pericolo dello slavismo e così via dicendo. Ma ciò detto, quando c'è la mobilitazione generale, c'è un momento di una sorta, diciamo, di quasi consenso all'operato dell'Austria, ma è triste dirlo. Perché? Perché si andava a fare la guerra contro i serbi, quindi si andava a fare la guerra contro gli slavi, e quindi anche diciamo una parte dei filo italiani di Trieste di questo sono abbastanza soddisfatti. Perché? Perché il irredentismo, lo slavismo era lo spauracchio contro cui si abbattevano tutte le polemiche. Per il resto, beh, non c'è nemmeno il tempo di aprire un dibattito, no? Cioè si segue con molta trepidazione che cosa stava accadendo, non si sa. I più evidentemente pensavano ancora una volta a una guerra circoscritta ai Balcani, alcuni intellettuali appunto la vedono invece diversamente, intensificano già la spinta a un intervento dell'Italia contro l'Austria. E alcuni altri più o meno giovani, in particolare giovani fuoriusciti triestini, attraverso varie organizzazioni, penso in particolare alla Trento Trieste, già si organizzano in battaglioni universitari o definiti tali, battaglioni della sul corda, e già si preparano alla guerra, ma a un'altra guerra naturalmente, no? L'animo con cui la maggior parte degli uomini del litorale vanno al fronte qual è? Per quanto in particolare gli italiani, no, nella gerarchia di valori dei comandi austriaci non fossero considerati tra i soldati più affidabili e migliori, diciamo così, anche per ragioni di carattere nazionale, ma insomma se ne vanno in guerra, ripeto, un po' con l'animo con cui si parte da Parigi, da Londra, da Berlino, da Budapest, da Praga. Si va alla guerra, si va a questa avventura, si vedrà, tanto si torna a casa per Natale, ma così non sarebbe stato. In che rimedio è una domanda? Quando dice che i polesani dovettero confluire Trieste, lei parla dopo la seconda guerra mondiale o durante già quegli anni lì? No, grazie, ottima domanda. Già nel 1914, nell'estate del 1914, cosa succede? Pola, che era l'arsenale della marina asburgica, è soggetta a una particolare legislazione che scatta in tempo di guerra in Austria-Ungheria. È una piazza forte militare e per questo tutti gli abitanti della città che non fossero utili alle varie mansioni legate al sostegno dello sforzo bellico devono abbandonare la città, e quindi circa 20.000 polesi o polesani, che dir si voglia, devono abbandonare appunto Pola. Lo stesso accadrà con l'ingresso in guerra dell'Italia e dell'Istria meridionale, e quasi tutta l'Istria meridionale viene forzatamente abbandonata dai suoi abitanti. Molti di loro finiranno nei cosiddetti baracche blanche, no? La città di Lenin, che mi ha regalato, se non sbaglio, sì, ben esatto. Capito, parla proprio una di proprio queste esperienze di profuganza, e quindi c'è un fenomeno di profuganza forzata che colpisce Pola, ma anche l'Istria meridionale già nel corso della prima guerra mondiale. E come dicevo poco fa, una certa quota di questi profughi viene accolta a Trieste. A proposito di gare, diciamo, di solidarietà, ci sono diversi proprietari di case che mettono a disposizione i loro alloggi per queste persone, e gli elenchi di queste persone sono molto interessanti perché ci dicono di tante donne con bambini al seguito, tante donne con bambini ed anziani al seguito, alcuni anziani soli, uomini e donne, insomma di una realtà di persone che di punto in bianco si vedono senza nulla, e sono accolti appunto per esempio da varie istituzioni come la Via Casa dei Poveri, un destino su cui alcune cose sono state scritte ma che mi sta solleticando parecchio tra l'altro. Quello è chiarimento, adesso con la domanda. E io vedo molte iscrizioni su queste immagini tutte in italiano. Ecco, pur essendo Austria-Ungheria, la lingua ufficiale era comunque l'italiano e nelle scuole si studiava l'italiano, oppure c'era una sorta di bilinguismo e tolleranza per l'italiano? E di più, c'erano quella della scuola è una grande battaglia che viene combattuta a Trieste, come anche a Trento ad esempio, no? A Trieste si ottiene negli anni 60 dell'Ottocento un liceo con lingua di insegnamento italiana, il liceo ginnasio comunale, sarà poi il liceo ginnasio comunale Dante Alighieri, che non a caso è la scuola che forma tanti intellettuali che poi si votano alla causa del patriottismo italiano. C'erano scuole slovene, c'erano scuole diciamo private con lingua di insegnamento italiano, erano scuole della Lega Nazionale che forma anche dei suoi ricreatori, e la scuola è appunto un grande terreno di scontro tra le varie componenti nazionali del litorale. Per esempio a Pisino lo scontro per l'istituzione di un liceo croato, a Gorizia anche là uno scontro per l'istituzione di un liceo croato, c'è tutta una regolamentazione particolare. Se lei forse l'ha letto, ma se no c'è quel bellissimo romanzo di Tonizza che è La miglior vita, in cui a un certo punto viene fuori proprio questa costruzione di scuole, arriva il prete filo italiano, arriva il prete filo croato e così via dicendo, la scuola italiana, la scuola croata, eccetera, eccetera. È uno scontro continuo, quello della formazione. Con la volontà di imporre. E il problema, sì, no, no, in realtà sì, l'imposizione era impossibile naturalmente, perché le scuole erano pur sempre scuole dell'imperiale regio, no, governo, però ve ne erano alcune in cui c'era una predominanza di lingua italiana, altre in cui c'era una predominanza di lingua slovena, altre in cui c'era una predominanza di lingua croata. Beh, il tedesco sì, il tedesco lo conoscono tutti, i documenti ufficiali vengono prodotti nelle diverse lingue nazionali. Poi a seconda dei funzionari, ad esempio le carte dell'archivio di Stato, cioè il funzionario italiano scrive in italiano, il funzionario tedesco usa il tedesco. Scusi, per arricchire il panorama, c'è anche lo scontro sull'uso del glagolitico, dell'antica lingua slava nelle liturgie, che è altro terreno di scontro e di battaglia. Volevo chiedere la quinta parte della popolazione triestina si sentisse sinceramente italiana. Le chiedo per questo, perché nel Trentino i trentini non si sentivano granché italiani, tanto è vero che Nazario Sarro, quando fu tradotto dal carcere al castello del Buon Consiglio su una carretta, durante il tragitto fu sputacchiato e insolentito a più non posso. E Battisti naturalmente, sì, certo. Dunque, questo è uno dei problemi con cui la nostra storiografia si deve confrontare, cioè la diffusione dell'irredentismo, la diffusione effettiva dell'irredentismo, la penetrazione effettiva di un patriottismo in senso italiano nella città di Trieste e non soltanto. Ma dunque, il consenso all'impero. Partiamo dalle classi popolari, ad esempio. Il consenso all'impero direi è abbastanza diffuso, quantomeno perché il movimento operaio triestino è molto forte, è molto organizzato, e il socialismo austriaco è un socialismo internazionalista ma a modo suo. Il programma è quello dello sviluppo delle libere nazionalità all'interno del tessuto dell'impero che sarebbe rimasto mutato in questo senso, no? Quindi l'indirizzo della socialdemocrazia austriaca è questo. Quindi lì siamo su una linea di sostanziale fedeltà a quello Stato. Nel mondo sloveno, il mondo sloveno è un mondo molto legato alla fede cattolica, a differenza del mondo italiano. Trieste è una città molto areligiosa, anche gli ebrei di Trieste finiscono per essere poco religiosi, e negli italiani vedono anzi i nemici di Roma, vedono la massoneria, vedono gli anticristi, insomma, in qualche modo, no? Beh, come si era fatto in Italia, in Italia certamente gli anni del papato con tutte le conseguenze del caso. E del resto nel cattolicesimo gli sloveni hanno anche un forte strumento di identità, va al di là della fede, no? È uno strumento di identità nazionale. Quando a Trieste il 24 giugno si svolgono le processioni per il giorno di San Giovanni, molto sentito dalla popolazione triestina, in particolare dalla popolazione slovena, partecipano tutti gli sloveni di Trieste, sia i cattolici che i liberali, i nazionalisti, eccetera, eccetera, quelli distanti. Perché? Perché Cirillo e Metodio, San Giovanni, la processione, i costumi tradizionali sono un modo per farsi vedere in città. E quindi anche in quest'ambito c'è un sostanziale idealismo, ma non c'è solo un sostanziale idealismo, perché nel mondo sloveno, così come in tutto il mondo slavo, si stanno diffondendo le idee dello jugoslavismo. Alla fin fine i vari principi e compagni, cioè gli attentatori di Sarajevo, sono fratelli di tanti altri sloveni, croati, eccetera, che lottano, ispirandosi tra l'altro a Mazzini, nasce da giovane Dalmazia, croati, e da Tevene. In Slovenia c'è forse la più tenuta organizzazione segreta, tra virgolette, irredentista, insomma, in filo jugoslavista, in senso filo jugoslavista di tutto l'impero. Mladica, mi pare chiamasse, Giovinezza, sempre evocazioni di Mazzini per intendersi. Quindi c'è idealismo, ma non soltanto. Il mondo croato, beh, il nervo dell'esercito asburgico, non tradizionalmente, lo sappiamo. E gli italiani? Bisogna stare attenti. Quali italiani? Perché ci sono due tipi di italiani, no, nel litorale. Ci sono gli austro-italiani, cioè cittadini austriaci di lingua italiana, e gli italiani di importazione, che sono tanti. Prima che scoppiasse la guerra, cioè che l'Italia entrasse in guerra, nel 1915 da Trieste se ne partono circa 40.000 arenicoli, così come venivano chiamati. La Lega Nazionale alla vigilia della Grande Guerra aveva 11.000 soci, che sono tanti per l'epoca. Quindi il consenso è un consenso che possiamo chiamare abbastanza diffuso soprattutto negli ambienti della media e piccola borghesia, nel mondo dei giovani, nel mondo degli studenti universitari e così via dicendo, no? Il mondo del volontariato in guerra sarà, il numero di volontari sarà molto più ridotto di quanto non sia il numero di fuoriusciti, semplicemente del numero degli austro-italiani, una percentuale quasi irrisoria rispetto a chi va a fare la guerra nell'uniforme asburgico, anche tutti fossero convinti, ci si va per amore o per forza evidentemente. Però il tema del consenso, della diffusione degli ideali irredentisti è un'analisi che va ancora approfondita, e confesserò che sto cercando di farlo in questi mesi. Grazie. Siamo un po' No, sono curioso di capire che cosa è successo nella città di Trieste poi alla fine della guerra, in tutta la vicenda della definizione dei nuovi confini. Come ha vissuto la città questa vicenda e come ha partecipato, come si è ispirato? Innanzitutto il primo dopoguerra Giuliano, come il secondo dopoguerra Giuliano, come sa, è estremamente complicato ed è anche piuttosto lungo, no? Perché dalla fine delle operazioni militari, per noi dall'armistizio di Villa Giusti, e la definizione del confine orientale passano praticamente 2 anni. Bisogna arrivare all'autunno del 1920 con il trattato di Rapallo, e in mezzo c'è di tutto. Per esempio c'è l'impresa fiumana, che è un'impresa molto destabilizzante e che dal punto di vista della ripercussione della politica internazionale è devastante. Intanto la città cambia profondamente, cambia nella sua composizione nazionale e sociale. A Trieste c'è il caos alla fine della Prima Guerra Mondiale, un caos assoluto. Intanto la città, nei primi giorni, negli ultimi giorni di ottobre, è in preda a gruppi armati, ex prigionieri, che si danno il saccheggio, un caos generalizzato. Arrivano le truppe italiane il 3 novembre del 1918 e si costituisce un governatore atto militare. Tra l'altro ho visto tra i libri esposti un bellissimo libro curato da Raul Pupo proprio sul dopoguerra, c'è tra l'altro una parte sul Trentino, sull'Alto Adige, molto interessante, una parte sulla Venezia Giulia e altri contesti appunto, no, di dopoguerra in cui gli italiani sono impegnati in varie operazioni anche per militare. All'interno di questo caos operano le autorità di questo governatorato militare, esattamente come succede da queste parti. Qui c'è Pecore Giraldi, c'è Petiti di Rovereto, anche Zara diventa un governatorato militare, e una delle prime iniziative è quella di cercare dei rimbalzi politici. A chi ci affidiamo per cercare di governare questa situazione piuttosto problematica? I liberali nazionali ormai hanno pressoché esaurito il loro compito, ormai era fatta in qualche modo, no? Che cosa rappresentiamo? Cercano l'appoggio dei socialisti, solo che il mondo socialista era in ebollizione anche lì. I socialisti triestini aderiscono al Partito Socialista Italiano, ma proprio nel momento in cui questo finisce per acquisire una maggioranza massimalista, e quindi non sono più tanto affidabili per... sono filo bolscevichi, proprio quelli che l'esercito italiano cercava di controbattere. E noi finiranno per appoggiarsi anche le autorità militari a quelle prime organizzazioni iperpatriottiche, i primi fasci in sostanza. A Trieste la nascita del fascismo è molto precoce, impetuosa e con conseguenze molto gravi nei rapporti tra le svariate nazionalità. Gli sloveni e i croati nel litorale vengono perseguitati nell'ambito del governatorato, prima confino in particolare dei sacerdoti. Il sacerdote è l'intellettuale spesso che rappresenta quel mondo, e quindi quello che diffonde il verbo nazionale, quindi bisogna isolarlo. Alcune categorie di lavoratori, impiegati statali, i ferrovieri di Trieste e sloveni che vengono allontanati. Se qualcuno ha detto Franziska di Tomizza, racconta un po' anche queste vicende, no? La situazione è difficilmente governabile, e poi c'è un'economia che è assolutamente lacerata, con un cambio corona-lira che sarà molto svantaggioso e che impoverisce di molto i capitali triestini. Una realtà tutta da ricostruire, e che per la sua ricostruzione purtroppo si imbatterà in un trattino di storia dell'Italia liberale, ma molto presto si imbatterà con particolare violenza nella storia del fascismo. Non so se l'ho risposto, ma è un dopoguerra terribilmente complicato. Ci si mettono i rappresentanti italiani alla conferenza di pace, che fanno gli sdegnosi, se ne vanno, ci si mette appunto D'Annunzio con l'impresa di Fiume, e insomma ci vorrà il generale Caviglia, no? Per risolvere la questione fiumana, non proprio con le buone maniere. Insomma, tanto l'esercito si era mobilitato aspettandosi aggressioni dell'esercito jugoslavo nascente, quanto invece gli unici colpi di cannone che avevano sparati sono quelli di italiani su altri italiani. Grazie a lei. Volevo chiedere la conferma se è vero che alla fine, quando sono arrivati gli italiani a Trieste, 12.000 famiglie di lingua tedesca sono emigrati in Austria. L'ho letto in un libro di storia, non ricordo quale. Sì, allora non ricordo esattamente i numeri francamente, ma mi sembra che siamo intorno a queste cifre. Direi che la maggior parte della componente della comunità, insomma, di lingua tedesca, i tedeschi se ne erano già andati, i tedeschi, no? Dell'impero del Reich tedesco, insomma, no? Nel 14 con la mobilitazione, piccolo primo esodo, piccolo insomma, della comunità tedesca da Trieste, da litorale, se ne vanno. Nel dopoguerra sì, se ne vanno la maggior parte dei parlanti. D'altra parte molti di questi erano funzionari, erano legati al mondo militare, impiegati statali, eccetera, quindi va un po' da sé. Altri, più radicati a Trieste, rimangono, e non tutti, diciamo, qualche volta vengono trattati bene, abbastanza emblematica, non so se lo conoscete da queste parti, forse qualche appassionato di montagna, di alpinismo. A Trieste opera un personaggio che si chiama Julius Cugy, un pioniere dell'alpinismo, musicista di vaglia, eccetera, e lui racconta proprio questo passaggio tra l'una e l'altra amministrazione. Da parte sua dice, è cambiato tutto, è cambiato il governo, sono cambiati i padroni, io mi metto da parte, seguo le nuove direttive, sono stato austriaco, sarò un fedele suddito del Regno d'Italia, eccetera, ma si sente un po' l'amarezza e anche un po' di preoccupazione. Certamente un mondo scompare. Scompare un mondo e soprattutto scompare un ruolo che Trieste aveva fino ad allora rivestito e che non ho mai più potuto. Con tutte, badate bene, non sono uno di quei nostalgici dell'Austria, non ci mancherebbe altro, lungi da me. Non perché sono neutrale, ecco, diciamo, faccio lo storico, non esprimo giudizi. Poi mi può piacere lo strudel, mi possono piacere gli spezzi, eccetera, tutte le cose che mangiamo anche noi, ma gli spezzi no, ma lo strudel sicuramente sì, e da cui riuscio super anche. Ma insomma, ecco, non erano tutte rose e fiori, no? Questa Austria dell'Europa così tanto mitizzata, appunto, aveva tantissimi scheletri nell'armadio. Poi purtroppo gli scheletri finiscono per uscire dall'armadio, per traboccare. E la storia di Trieste, dal primo dopoguerra in avanti, è la storia di un lungo declino. Sì. Come siamo messi? Allora ci siamo, direi, a questo punto, no? Abbiamo, insomma, una buona ora. Grazie allora a voi per la partecipazione attenta, interessata, e grazie a Fabio, grazie alla biblioteca. Credo di prendere solo una cosa, c'è un libro che è uscito da pochissimo, il Ballo del Mulino, storici italiani e austriaci, si chiama La guerra italo-austriaca, è uscito anche con una collaborazione dell'assessorato di Chicco Regno Storia e Regione. C'è un intervento di Fabio Todero anche appunto sulla rappresentazione letteraria della Prima Guerra Mondiale, insomma, è in esposizione tra l'altro con la copertina rossa. Io passo la serie. Solo un'ultima parola, nel foyer del Trieste c'è una mostra organizzata dalla Biblioteca del CAI in collaborazione con l'ANA di immagini sulla Prima Guerra Mondiale. Sto scegliendo dare un'occhiata. Ecco, allora arrivederci al prossimo appuntamento con te, grazie ancora.